calmi, ma con prezzi al massimo, come palloncini prima di scoppiare, labili, la coscienza dietro un muro, fingono di credere, non pensano, fluidi si adeguano. La mente è come un palloncino, cerca elasticità, se non le dai un po' di respiro, presto ti deluderà, ne produrrà di perversioni, egoismi e cecità, da renderti impossibile, da renderti impossibile. Labili già preparano l'eccidio, ciò che non posseggono pretendono, stupidi lo impongono. Segni evidenti di declino di una brutta umanità, ebbra di sangue e di potere, manca l'elasticità mentale per restringersi, mentale per restringersi. Non c'è più niente, c'è solo da suonare.